Siamo con Massimo Righetti per parlare di un'estate indie da lunedì 16 a Roma all'Apollo 11. Massimo, ben trovato. Ciao, grazie, ben trovato, ciao a tutti. Ci racconti? Allora, questa è stata una stagione molto molto molto bella, ricca di soddisfazioni. Come molti forse sanno, l'Apollo 11 è la casa del documentario, ha le sue rassegne storiche come Racconti dal Vero, che forse è la più antica sul documentario, come Festa Romana, dove si festeggiano autori letterari. Da un paio d'anni a questa parte è iniziato un progetto di programmazione cinematografica dei film indipendenti, che ce ne sono tantissimi, di grandissima qualità, vincitori di festival importanti, e abbiamo voluto dargli una finestra per farli conoscere. È stato un progetto faticoso, ma insomma sta andando, sta crescendo, e quest'anno è stata veramente ricca di soddisfazione, quindi abbiamo deciso di festeggiare, complice anche un'aria condizionata perfetta da noi, e quindi cerchiamo di combattere i 40 gradi di Roma di oggi, e abbiamo deciso di festeggiare per chiudere la stagione riproponendo i migliori, diciamo, film che sono stati i più amati e i più apprezzati dai soci dell'Apollo 11. Quindi all'Apollo 11 abbiamo scelto 11 giorni e 11 titoli, tanto perché siamo seriali. Quindi si inizia il 26, sono 11 giorni spalmati fino al 29 luglio, si parte con Dancer, non so se vuoi ti dico tutti i titoli. Beh, i titoli elenchiamoli, sì. Allora, sono Dancer, Manifesto, L'ordine delle cose di Andrea Segre, Teoria svedese dell'amore di Eric Gandini, Dark Knight di Tim Sutton, Sammy Blood di Armanda Kernel, 1945 di Ferenc Dorok, il film indipendente, diciamo, il caso dell'estate, visto che continua a fare tanto pubblico, The Constitution, due insolite storie d'amore, e anche questo un altro film indipendente che ha sbancato praticamente i botteghini dei cinema indipendenti, My Generation, Nico, 4, 6, 8, 10, me ne manca 11, e Poesia senza fine di Alessandro Jodorowsky. Sì. Senti, la scelta è dovuta a una combinazione del successo tra il pubblico e un gradimento vostro? Questi sono titoli che sono passati da noi dall'inizio della stagione, da settembre dello scorso anno fino a oggi, e sono stati quelli, diciamo, tra i più visti, ma sicuramente tra i più apprezzati. Sì, ok. E nonostante, appunto, abbiamo a volte, per alcuni di questi a malincuore, abbiamo dovuto ridurre le proiezioni per far spazio ad altri, e continuavano a richiedercelo, quindi insomma è stata una scelta dura, perché abbiamo avuto tanti bei film con tanto successo, però insomma questi sono, diciamo, sono la top 11. Senti, una singola proiezione per ogni titolo? No, abbiamo deciso di fare due proiezioni, appunto dal lunedì 16 luglio, due proiezioni, una alle 19.30 e una all'orario, quello quasi consono, delle arene alle 21.30, e per ognuno di questi titoli ci saranno due proiezioni, una alla principale alle 21.30 e un'altra, tra virgolette, replica alle 19.30. Diamo anche modo alle persone che preferiscono non fare tardi di poterlo vedere, noi ce ne abbiamo tanti anche di questo pubblico. Previste anche introduzioni, ospiti? Adesso no, però ci saranno probabilmente delle sorprese. Per scaramanzia non lo dico. Ok. Voglio Andrea Segre sicuramente, adesso spero che mi senta, voglio Andrea Segre qui a presentare L'ordine delle cose. Ok, lanciamo l'appello allora. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Un'estate Indie dal 16 al 29 luglio all'Apollo 11 a Roma. Massimo, altre informazioni? Cioè, vabbè, chiaramente la pagina Facebook e il sito internet dell'Apollo. Sì, in questo momento noi abbiamo le pagine social sia su Instagram che soprattutto Facebook. Ecco, una cosa che volevo dire, questa rassegna è spalmata su 11 giorni. Si ferma praticamente nel weekend prossimo, per fare spazio al film in prima visione per noi, e in questo caso sarà estate 1993, e quindi avremo, oltre tra i film, insomma, di questa rassegna, continueremo a presentare film che comunque La sono. normale programmazione. Esatto, adesso in questo momento noi abbiamo Kedy, la città dei gatti, che evidentemente i mici fanno sempre successo, le città. Una città come Roma, sì. Poi Morto Stalin se ne fa un altro, Sì. dal genio di Armando Iannucci. Appunto, avremo Estate 1993 e forse un altro titolo a sorpresa sempre il prossimo weekend. Bene, Massimo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Villu